scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima, e lo sguardo illumina tutto il viso e la malvagità, quello che hai lasciato a terra scappando dove non c'è verità. Io non ero la tua libertà, forse non ho mai capito che non c'era niente, avevo dato tutto per scontato. Scusami, scusami, se poi mi innamorai. Sono 24 ore che non ho parole per spiegare al cuore che fa male perdere. L'hai deciso tu, resti inevitabilmente come un chiodo fisso dentro la mia mente, quel pensiero sanguina. Solo tu stai bene, butto via le mie serate quasi improvvisate, sempre più scontate di chi non ha regole. Come hai fatto tu, hai dato solo calci alla mia vita, è profonda la ferita, io che t'amo ancora adesso non ti ho mai tradita. La mia rabbia sai qual è? Senza avere alcuna colpa, è la punizione ingiusta che sto dando a me per avere amato te. Ci potevi anche riflettere, o l'avevi già previsto da tempo che saresti andata via. Hai ripreso la tua libertà, forse non ho mai capito che non c'era niente, avevo dato tutto per scontato. Scusami, scusami, se poi mi innamorai. Sono 24 ore che non ho parole per spiegare al cuore che fa male perdere. L'hai deciso tu, resti inevitabilmente come un chiodo fisso dentro la mia mente, quel pensiero sanguina. Solo tu stai bene, serate quasi improvvisate, sempre più scontate di chi non ha regole. Come hai fatto tu, hai dato solo calci alla mia vita, è profonda la ferita, io che t'amo ancora adesso non ti ho mai tradita. Se qualcuno ci sarà, niente al mondo cambierà, cambia solamente il fatto che per te è finita. Hai dato solo calci alla mia vita, è profonda la ferita, io che t'amo ancora adesso, non ti ho mai tradita.